falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Beh, oggi parliamo di un personaggio veramente particolare, perché da un lato sembra un blocco di granito e invece è un personaggio con una serie notevole di sfaccettature. Certo, è uno dei cattivi, comunque ha interpretato uno dei cattivi più spietati del cinema, un cyborg, un Terminator in grado di trasformarsi in una eccezionale arma di attacco e di difesa, però ha interpretato molti altri personaggi, però non arriva dagli Stati Uniti, quindi è a tutti una vita particolare, assolutamente da raccontare. Alterna la sua carriera di star del cinema, quella di culturista, imprenditore e politico. Questo gigante austriaco è, lo avete capito, Arnold Schwarzenegger. From Austria, welcome to our stage, please, Mr. Arnold Schwarzenegger. Beh, forse alcuni di voi conoscono Arnold Schwarzenegger solo per la sua carriera d'attore, magari anche perché è stato messo in contrapposizione a Sylvester Stallone in una ipotetica rivalità che peraltro non è mai esistita, perché i due sono grandi amici e soci d'affari. In realtà Schwarzi, come lo chiamano in molti, ha saputo incarnare perfettamente quello che viene definito il sogno americano, perché per capire meglio questa storia bisogna partire addirittura da un piccolo paesino dell'Austria, dove nasce un bambino di nome Arnold Alois, figlio di un gendarme della polizia austriaca e di una casalinga. Sono cresciuto in Austria nei primi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Eravamo poveri, non c'era cibo e credo che questa sia stata la principale ragione per cui per tutta la vita ho inseguito il sogno di una vita migliore. Quando a scuola ho studiato gli Stati Uniti e ho visto le foto di grattacieli e le autostrade con quelle grosse macchine, ho deciso che avrei fatto parte di quel mondo. Il padre è un giocatore professionista di curling e Arnold cresce praticando diversi sport, tra cui calcio, nuoto, pugilato. Ha un fisico asciutto e allenato, ma un giorno, guardandosi allo specchio, pensa di essere in grado di ottenere di più dal suo corpo, una forma, un aspetto che denotino una armonia incredibile. Simmetria. Era molto importante per me costruire il resto del mio corpo ad un livello superiore e finalmente, dopo circa 10 anni di allenamento, sono riuscito a raggiungere un livello di perfezione e di proporzione simmetrica che è diventata la mia fortuna. Il piano di Arnold è perfetto e lo sogna fin da piccolo questo piano: diventare un culturista e poi, grazie al suo corpo, andare in America e diventare una stella del cinema. Sono sogni di gloria che di solito vengono ridimensionati da qualunque genitore, però questo è più che un sogno, è una dichiarazione programmatica, e la tenacia di Schwarzenegger è superiore alla media. Così nel 67, a soli 20 anni, lui conquista veramente il titolo di Mister Universo. Mai nessuno era riuscito in così giovane età a raggiungere un risultato del genere. È una preparazione nata in palestra con un durissimo allenamento fisico affiancato da una dieta iperproteica. Il primo colpo d'ala di questo giovane austriaco è stato raggiunto e adesso lui deve lasciare la sua terra per conquistare l'America. American. nel 1968 Schwarzenegger si trasferisce negli Stati Uniti e continua a allenarsi, e nel 70 vince il prestigioso titolo di Mister Olympia. Negli Stati Uniti Arnold non solo migliora i suoi muscoli, ma lavora quel suo sogno di diventare ricco e famoso, una star del cinema. E per conquistare un paese devi conoscere la sua lingua e la sua storia, e Schwarzenegger si mette a studiare. Prima di tutto mi sono iscritto al Santa Monica College, dove ho imparato bene l'inglese e la storia degli Stati Uniti. Questo mi ha permesso di iscrivermi all'università e laurearmi in economia, perché il punto era che mi allenavo 5 ore al giorno, ma dovevo essere altrettanto produttivo nel resto della giornata. Questa frase, mi allenavo 5 ore al giorno ma dovevo essere produttivo nel resto della giornata, la farei imparare a memoria a un bel po' di ragazzi giovani che conosco e che dicono che la vita fa schifo e che non cambierà mai. Queste sono le cose da fare se vuoi cambiare la tua vita. E lui intanto inizia un'attività edilizia assieme a Franco Columbu, che è un altro bodybuilder che si allena con lui. Sfrutta la sua immagine per vendere per corrispondenza attrezzatura per palestra, quindi dimostra di non essere solo muscoli e basta. La sua visione della vita è molto chiara, è fin troppo rigorosa, tipica della sua origine austriaca. In poco tempo riesce a fare fortuna ancora prima di diventare una star di Hollywood. Fa il modello per servizi fotografici, il suo nome comincia a girare nell'ambiente, quello di serie B del cinema, dove si girano film a basso costo che non portano grandi guadagni. Ma proprio a uno di questi film, Ercole a New York, e alla sua partecipazione al documentario Pumping Iron, L'uomo d'acciaio, finalmente arriva la grande occasione, l'occasione per recitare in una produzione importante. Fuoco e vento provengono dal cielo, dagli dèi del cielo. Ma è Crom il tuo dio, Crom che vive nella terra. Un tempo i giganti vivevano nella terra, Conan, e nell'oscurità del caos mistificarono Crom e gli sottrassero il mistero dell'acciaio. Crom si adirò e la terra tremò, e fuoco e vento abbatterono quei giganti e scagliarono i loro corpi nelle acque. Ma nel loro furore gli dèi si dimenticarono del segreto dell'acciaio e lo lasciarono sul campo di battaglia. E noi che lo trovammo non siamo che uomini, né dèi né giganti, solo uomini. E questo è un discorso bellissimo, peccato che a farlo sia il padre di Conan nel film, perché lui in questo Conan il Barbaro in realtà parla pochissimo, quasi mai, però in questo film dell'82 si fa conoscere a livello internazionale. Le sue doti di recitazione, comunque anche nel silenzio, sono essenziali ma efficaci. 2 anni dopo ci sarà un sequel con Conan il Distruttore, ma all'orizzonte si profila per Schwarzenegger un provino che cambierà definitivamente e per sempre la sua vita. Gabbiano. 1984, l'anno in cui Orwell aveva ipotizzato un mondo controllato dal Grande Fratello, ma invece non è capitato, almeno non in quei termini, ciò che Orwell aveva profetizzato. Nell'84 invece esce un film di fantascienza che racconta un altro tipo di futuro, un futuro apocalittico in cui le macchine hanno preso il sopravvento e pochi uomini cercano di riconquistare il potere perduto. Li comanda John Connor, nato nel 1984. Il film si intitola Terminator e dal futuro viene spedito nel passato un cyborg, un Terminator, con lo scopo di uccidere Sarah Connor, la madre di John, per non fare nascere John Connor. James Cameron, il regista del film, assegna la parte a Arnold Schwarzenegger, che con questo film vive il suo grande colpo d'ala, perché viene consacrata la sua carriera cinematografica. Un calibro 12 automatico. Questo è italiano. Va a pompa ed è automatico. La 45 a canna lunga, col mirino laser. Queste sono nuove di zecca, le ho appena ricevute. È una buona pistola. Tocca il grilletto, compare il raggio. Lo sistema nella direzione del bersaglio e spara. Non lo può mancare. Desidera altro? Un fucile fasato plasma calibro 40-0. E qui c'è solo quello che vede, amico. L'Uzi 9 mm? Mi pare che le armi le riconosca. Qualunque di queste va benone per difendersi. Quindi, qual è che vuole? Tutte. Oggi chiudo presto, allora. Per le pistole bisogna aspettare 15 giorni, ma i fucili può prenderli subito. Questo non deve farlo. Sbaglio. Con 6 milioni e mezzo di dollari di costi, il film incassa nel mondo 80 milioni di dollari. È un successo inaspettato che trasforma Schwarzenegger nell'incubo notturno di molti bambini, perché il personaggio del cyborg che insegue senza sosta Sarah Connor è ormai una delle icone della storia del cinema. Lui è perfetto in quel ruolo, forse perché le sue battute sono poche, pronunciate in modo meccanico, e il cyborg è totalmente inespressivo, e quindi a fare un po' i maligni non è che il ruolo richieda una grande prova da attore. Fatto sta che di lì in avanti è un susseguirsi di film con Schwarzenegger nel ruolo di protagonista. Commando, Predator, L'implacabile, Danko, Total Recall, in cui debutta anche una giovane Sharon Stone. Doug, tesoro, tu non mi faresti del male, vero dolcezza? Dolcezza, sii ragionevole. Dopotutto, siamo sposati. Ho chiesto il divorzio. Ma naturalmente Schwarzenegger è uno che non lascia le cose a metà, così piano piano impara veramente a recitare. Magari è legato a un certo tipo di film, gli action movie in cui contano esplosioni, inseguimenti, ma piano piano c'è spazio per qualche battuta fulminante. Così arriviamo all'88 e vuole cimentarsi in un ruolo comico, in una commedia. Interpreta con Danny DeVito Gemelli. Per prima cosa, Julius, lascia perdere la disco music, giusto? Niente disco music. Niente disco music. Quando io voglio essere romantico, io ballo il valzer. Come Strauss. Sì, sì, le puoi quasi plasmare con le tue mani. Rom pom po, rom pom po, rom pom po, rom pom po. Avanti, alzati, mettiti in posizione. Ti darò un paio di consigli. Sì, la storia dei due improbabili, impossibili gemelli, Danny DeVito e Schwarzenegger, è un'altra svolta, perché lui dimostra che può passare da Terminator all'ingenuo gemello, e la conferma la si avrà nel 90, quando sbanca il botteghino con un'altra commedia molto americana, insomma non certo da premio della critica, Un poliziotto alle elementari. I fan di Terminator chiedono a gran voce un sequel, così nel 91 esce Terminator 2, in cui Schwarzenegger interpreta ancora una volta il cyborg, che però questa volta è programmato per difendere, non per uccidere. Si scontra con altre macchine per proteggere l'adolescente John Connor, cioè passa dalla parte dei buoni. È un altro successo mondiale. Schwarzenegger ci scherza su quando va ospite al Tonight Show di Jay Leno. È molto divertente quando tua madre va a vedere un film che interpreti, perché a lei non importa quanto successo tu stia ottenendo, ma è attenta ai particolari a cui altri non badano. Ricordo che dopo Terminator 2 mi chiamò e mi disse: ma tu non sorridi mai? In un poliziotto alle elementari sorridevi sempre. In questo film invece non lo fai mai. Ti facevano arrabbiare? Solo una madre può dirti certe cose. Mamma, faccio la parte di un cyborg. Cosa vuoi che faccia? I'm a machine, I'm a cyborg. What do you expect, you know? E la simpatia di Arnold Schwarzenegger è una caratteristica molto importante della nostra storia, perché stiamo sfatando il mito secondo il quale i culturisti sono solo una massa di muscoli che nascondono le loro insicurezze nel pumping iron, cioè nel pompare i muscoli d'acciaio. Non è così, perché Schwarzenegger è un brillante uomo d'affari, un attore capace di passare ormai dai ruoli drammatici alle commedie brillanti, è una persona con grandi doti di comunicazione, e questo è l'aspetto più importante, perché sta per arrivare il terzo colpo d'ala di Schwarzi. È un altro tassello nel sogno americano di questo bambino austriaco che voleva diventare ricco e famoso, e pur essendo austriaco magari voleva anche diventare presidente degli Stati Uniti. Questo non è possibile perché Schwarzenegger è austriaco, ma non poniamo limiti alla provvidenza, lo vediamo dopo. And took the word American away. But to be fair to them, their other name Martians, like U.S. Ayers and United Statesians, were pretty bad. Still, I want to be as American as the French are European, or as those in Antarctica are Antarctican. Even if they're just penguins. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia epica di una delle più grandi ascese sociali, umane, professionali e geografiche della storia. È la storia di un ragazzino austriaco che diventa un culturista e insegue il sogno americano di diventare ricco e famoso. Quest'uomo è Arnold Schwarzenegger, che ha interpretato moltissimi ruoli nei suoi film, ma quello che lo ha reso più famoso sicuramente è il cyborg che ha interpretato in due film, il personaggio di Terminator. Lui ha alternato i ruoli in film d'azione con commedie brillanti, a volte ha mischiato i generi, come per esempio nel film True Lies con Jamie Lee Curtis. Ma tutto quello che ha fatto è il frutto di scelte attente, perché Arnold non è solo una montagna di muscoli, ma con la sua laurea in economia è anche un abilissimo uomo d'affari. Hi everybody, I'm Michael Kastner and welcome to Planet Hollywood at Disney World. We're actually goes to Disney World, we should say, and I'm here with Sly Stallone, who basically is only second to me in frequent flyer mileage this year. We do get around, don't we? 22 ottobre 91 apre a New York Planet Hollywood, che è il primo di una catena di ristoranti a tema in cui tutto ricorda le star del cinema. Nasce come competitor di un'altra importante catena, la Rock Café. Bene, i soci sono quattro: Sylvester Stallone, Bruce Willis, Demi Moore e Arnold Schwarzenegger. I ristoranti sono arredati con riferimenti a film star di Hollywood. In pochi anni raggiungono un notevole successo, se ne aprono più di 30 in tutto il mondo. Ma spesso le cose che sembrano avviate a un rapido successo e magari passano di moda, e Schwarzenegger è una persona molto attenta, così esce dalla società 7 anni dopo, poco prima che la proprietà rischi la bancarotta. Credi di essere il primo scemo che si è svegliato una mattina e ha detto: che noia, credo che farò un figlio? Io non ho detto questo, perché sei così negativo? Ma cos'hai, uno strudel al posto del cervello? Tu sei un uomo, Alex. Tutto questo è assolutamente contro natura. Gli uomini non fanno bambini, lo lasciano fare alle donne. Il bello di essere uomini è anche questo. Tuo padre non te l'ha mai fatto un discorsetto? Senti, se non vuoi aiutarmi dillo, ma non mi servono lezioni. Sì, ti servono, e come? Se ti arrivasse per un solo minuto la gioia e il legame profondo che si stabilisce con il bambino, allora mi capiresti. Ma ti sei sentito? Sei impazzito completamente. Forza, vieni dentro. La carriera continua dopo aver girato True Lies nel 94, alla volta di Junior, in cui è ancora impegnato in un ruolo brillante, ancora con uno dei suoi partner storici, Danny DeVito. Qui impersona uno scienziato che prova su se stesso una nuova cura ormonale e riesce a rimanere incinto, perché Schwarzenegger è così, alterna ruoli brillanti e ruoli da cattivo, come quando interpreta invece Mr. Freeze nel film Batman e Robin. Ah, energia. La battaglia col pipistrello ha esaurito le mie forze. Però ho vinto completamente, non è così? Senza alcun dubbio. Un altro diamante di questa grandezza e il mio motore congelante sarà completo. Farò gelare la città e così potrò ricattare Gotham. Se la città non si piega alle mie richieste, ci sarà la neve eterna su Gotham. L'inizio degli anni 2000 è un inizio difficile per il cinema americano, soprattutto per il genere, diciamo, catastrofico d'azione, perché nel 2001 c'è stato l'attentato delle Torri Gemelle, così molte produzioni sono state annullate o posticipate perché il pubblico è ancora troppo traumatizzato da quello che ha visto nella realtà, non vuole vedere altra violenza nel cinema. E così Schwarzenegger esce con un film, Danni collaterali, che non raggiunge il successo sperato, e allora lui, che è un uomo intelligente, decide di prendersi una pausa, di dedicarsi a altri progetti, e progetti che hanno anche a che vedere con sua moglie, che ha conosciuto nel 77, alla quale è stato sposato per 25 anni, Maria Shriver. Fui affascinato da lei. Fu un colpo di fulmine, perché lei era bellissima, con un sorriso incredibile, e poi era allegra. E io mi sono accorto di non aver mai incontrato prima una persona così bella, brillante ed intelligente come lei. Beh, sarà sicuramente bella, brillante, intelligente, ma anche un'altra qualità, perché è la figlia di Eunice Kennedy, la sorella del presidente Kennedy ucciso a Dallas, e quindi appartiene a una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti, e loro si sposano 9 anni dopo, nel 1986. Beh, Arnold è famoso, è ricco, ha dimostrato di essere un uomo che non ha bisogno di un matrimonio di convenienza per raggiungere i suoi obiettivi, ma comunque la frequentazione della famiglia Kennedy non è come sposare una ragazza del popolo, e così entra nel mondo del Partito Repubblicano, e questo gli permette di respirare l'aria politica. In realtà i Kennedy della prima ora erano democratici, però sono una casata e una casta che è quasi più importante addirittura del dualismo tra Partito Democratico e Repubblicano, e intanto lui respira quell'aria politica, l'aria americana, l'aria fatta di integrità morale, magari di non troppi contenuti, ma più di glam, di grandi convention, di frasi a effetto, quella delle lobby, quella delle grandi famiglie, e lui è perfetto per questo genere di cose. He's failing them terribly. And this is why he needs to be recalled. Mm-hmm. And this is why I'm going to run for governor of the state. Così nel 2003 accantona momentaneamente la carriera cinematografica, e dopo essere stato capo della commissione presidenziale per lo sport sotto il presidente Bush, dopo aver lavorato nello stesso ruolo per il governatore della California, al Tonight Show di Jay Leno, Schwarzenegger annuncia la sua candidatura a governatore della California. È una carica importante perché la California è uno degli stati più rappresentativi degli Stati Uniti. Lui non può candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti perché per quello bisogna essere anche nati negli Stati Uniti, ma lui ha le idee chiare: quando vuole un risultato niente lo può fermare. Così nel 2003 vince le elezioni e diventa governatore della California. This historic election has come about because there's a tremendous disconnect between the people of California and the leaders of California. I want to be the people's governor. I will work honestly, without fear or favor, to do what is right for all Californians. Join Arnold and let's bring California back. First born unicorn, hardcore. Arnold Schwarzenegger è un repubblicano convinto. Beh, intanto ha sposato una Kennedy che in questo momento fa parte di una casata più legata al partito repubblicano, ma poi perché i repubblicani hanno sempre dichiarato di aiutare le imprese, abbassare le tasse, rafforzare l'esercito, le idee che Arnold aveva quando era appena arrivato dall'Austria. È rimasto in carica dal 2003 al 2011, ha svolto la sua attività di governatore tra alti e bassi. È stato giudicato anche populista perché nei momenti di scarso consenso ha giocato le carte della popolarità cinematografica. I suoi comizi, si dice, erano più simili a copioni di film che saggi di perizia politica. Però ha puntato molto sul carisma e sulla simpatia, ha lavorato sempre su pochi e semplici concetti: meno tasse, più libertà alle imprese e sicurezza sulle strade. Che emozione! Wow, questo è come vincere un Oscar. Questo è un grande momento per me. Pensare che un ragazzino cresciuto in Austria possa crescere e diventare governatore della California ed essere qui e parlare per il presidente degli Stati Uniti, questo è il sogno di un immigrato. It's an immigrant's dream. Eccolo qua, il sogno di un immigrato. E lui ha puntato tutto su questo discorso perché lui è consapevole di incarnare il sogno americano, quello delle persone che trovano negli Stati Uniti la terra delle opportunità. E a volte ha degli atteggiamenti più democratici dei repubblicani, come quando per esempio, e qui non possiamo che fargli un applauso, decide di devolvere in beneficenza il suo stipendio da governatore, proprio come fanno qua in Italia. No? Ambientalista convinto, però ha lavorato durante i suoi due mandati consecutivi per la riduzione dei gas e dell'inquinamento, ha fissato molti incentivi per sviluppare energie alternative pulite, anche se storicamente il suo partito è sempre stato il meno interessato all'ambiente, dal momento che spesso è stato accusato di proteggere gli interessi delle grandi lobbies industriali. So there's Republicans and Democrats. Repubblicani e democratici insieme devono pensare a creare un ambiente più pulito sul nostro pianeta. Ma io ho sempre rifiutato le divisioni tra i due partiti su questo argomento, perché la politica non può combattere sull'ambiente. Queste divisioni sono utili alla politica, ma non al popolo. Quindi argomenti delicati che magari a volte infastidiscono i grandi vecchi della politica americana, però la gente lo apprezza. In fondo ha saputo entrare nel cuore del popolo proprio per il coraggio di portare avanti idee a volte anche un po' scomode per il suo stesso partito. Insomma, non è proprio il repubblicano un po' becero dell'America degli anni 70, è un progressista a suo modo, a volte è stato definito così. C'è stato un momento durante il suo duplice mandato in cui si discuteva se non proporre una modifica alla Costituzione per farlo correre per la Casa Bianca. Ve lo immaginate Terminator alla Casa Bianca? Hasta la vista, baby. Nel 2011 conclude la parentesi politica, torna al cinema, anche se è difficile raggiungere i livelli dei successi del passato. Partecipa al film I Mercenari in compagnia dei suoi due ex soci, Stallone e Bruce Willis, quindi attori che hanno sbancato i botteghini e che in qualche modo cercano di recuperare posizioni. Lui, per sua fortuna, gode di una fama inossidabile, riesce sempre a essere un ospite gradito dei talk show, come quando recentemente ha partecipato al Tonight Show di Jimmy Fallon e ha raccontato della sua passione per i carri armati. In Austria, quando avevo 18 anni, ero militare, guidavo i carri armati e così, anni dopo, quando questi erano diventati obsoleti anche per l'esercito austriaco, ho chiesto che me ne regalassero uno. Lo uso per distruggere cose, lo faccio per raccogliere fondi per programmi dopo scuola. Come al solito negli Stati Uniti accadono cose che in Italia sarebbero impensabili, cioè vedere uno, un grande attore che con un carro armato distrugge un po' di roba a pagamento e in questo modo però riuscire a raccogliere più di $1 milione in beneficenza. Insomma, qua c'è la Nazionale Cantanti, lì c'è Schwarzenegger che sfascia tutto a pagamento con un carro armato. Nel 2015, a 67 anni suonati, c'è un nuovo colpo d'ala in arrivo perché esce il quinto capitolo della saga di Terminator. questa volta non ci saranno riproduzioni virtuali frutto della computer grafica. Lui sarà ancora una volta protagonista con il suo giubbotto da motociclista, gli occhiali che nascondono il famigerato occhio rosso del cyborg. Beh, niente male per un attore che è passato dai $12,000 di Ercole a New York ai $30 milioni per Terminator 3, e che è il compenso più alto della storia del cinema. Ogni giorno abbiamo deciso di raccontarvi storie straordinarie e anche storie emblematiche. Questa è la classica storia americana che in qualche modo è anche giusto raccontare. Noi vi aspettiamo con altre storie, e segnalatecele via mail al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure andate sul sito di Radio 24, oppure interagite con me, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.